discorso per i principianti. But it's a reminder for everybody else. Ma può servire per ricordare le cose a tutti gli altri. And a timely reminder for myself. È anche buono per ricordarmene io stesso. Every so often we have to remind ourselves of what we're actually trying to do. Perché spesso bisogna ricordare a se stessi quello che vogliamo fare. For those of us who've been meditating a long time, our greatest enemy is laziness. Per chi è abituato alla meditazione da molto tempo, il nostro più grande nemico è la pigrizia. La pigrizia. So there are three things that we have to be clear about in order to practice properly. Ci sono tre cose che vanno chiarite per praticare in modo corretto. The first one is to understand what the Buddha means by right awareness. La prima è capire cosa intende il Buddha per la retta consapevolezza. And then we have to know how to deal with what takes us away from right awareness. And then we have to be clear about what to do with those things that take us away from right awareness. E dopo bisogna chiarire cosa dobbiamo fare con le cose che ci portano lontani dalla retta consapevolezza. And then we have to be clear as to what is it we're actually investigating. E chiarire che cos'è che realmente dobbiamo investigare. So to understand right awareness, we can see it from the Buddha's own experience. Per capire la retta consapevolezza bisogna guardarla dal punto di vista del Buddha. Dall'esperienza del Buddha. Experience, yeah. Remember, he left his family in search of an end to suffering. Lasciò la sua famiglia in cerca della fine della sofferenza. Suffering in those days was very much tied in with rebirth, reincarnation. In quei tempi la sofferenza era collegata alla reincarnazione, la rinascita. And he himself was going through what we would call an existential crisis. E lui attraversò quella che noi chiameremmo una crisi esistenziale. So around about in his early 20s he became aware of sickness, aging and death. Circa l'età di 20 anni diventò consapevole della malattia, vecchiaia e morte. It was the end of youth. E fu la fine della giovinezza. I only came to realize that the end of my youth had happened last year. Ho appena realizzato che la fine della mia giovinezza è stata un anno fa. Yes, when I had my 70th birthday, I suddenly realized this was the end of youth. Quando ho compiuto 70 anni, all'improvviso ho realizzato che questa era la fine della giovinezza. So the first teachers he goes to show him how to create these ecstasies, internal ecstasies. Il primo insegnante da cui andò il Buddha gli insegnò a ottenere le estasi interne. These you find in all religions, E questo si trova in tutte le religioni. So repetitive prayer, mantra, visualizations. Preghiere ripetitive, mantra, visualizzazioni. Like we were doing metta yesterday, if you keep doing that, you'll see the heart grows and grows, very beautiful. E se facciamo metta come si è fatto ieri, se si continua ripetendo, si sente che il cuore cresce, c'è questa sensazione di piacevole. And it can become so beautiful that you drown in it. E può diventare così bella questa sensazione che ci si affonda dentro. So these we call the jhanas or the absorptions. E queste vengono chiamate i jhana, cioè gli assorbimenti. And he went to two teachers, but every time he was disappointed. E andò da due maestri, ma tutte e due le volte uscì deluso. Because when he came out from these beautiful mental states, he was still depressed and anxious. Perché come usciva da questi stati mentali piacevoli, era ancora depresso e ansioso. Ah. So the Buddha also taught these absorptions. It's part of his teaching. Il Buddha ha insegnato gli assorbimenti, jhana, come una parte del suo insegnamento. But they don't purify the heart. Ma questi non purificano il cuore. They simply create beautiful, the possibility of beautiful states of mind. Creano la possibilità di stati beautiful. Beautiful states. Di stati piacevoli, belli della mente. Ah. So he tried a different technique. E quindi si rivolse a una tecnica diversa. And these were self-mortifications which other teachers taught. E c'erano altri insegnanti che insegnavano la mortificazione di se stessi. The more famous one was the Jain leader, the Mahavira. Il più famoso era il leader dei jainisti Mahavira. Ah. So the understanding was that the soul, the eternal soul, was trapped in the body. Quello che si insegnava era che l'anima eterna era intrappolata nel corpo. The body was a physical representation of karma, of results. Il corpo era una rappresentazione fisica del karma. So if we could just let go of the body, then the soul would rise to eternal heaven. E quindi se si riusciva a lasciare andare il corpo, l'anima sarebbe ascesa al paradiso eterno. So the mortification of not eating was very much part of that practice. La parte principale di questa pratica era la mortificazione del non mangiare. Mm. Even now Jain saints will slowly starve themselves to death. Anche oggi i santi jainisti lentamente si fanno morire di inedia, senza mangiare. Even elderly people will slowly stop eating. Anche le persone anziane lentamente smettono di mangiare. But the Buddha himself thought that after five years, conclusion was that it was just more suffering. Ma dopo 4 o 5 anni di questa pratica, il Buddha concluse che era anche questa una sofferenza maggiore. Ah. So he left his companions and he must have felt very despairing, I think. E quindi lasciò i suoi compagni e si dovette sentire molto disperato. Because he couldn't see the answer in any of the teachers, in any of the traditions that he had investigated. Perché non aveva trovato nessuna risposta in nessuna delle tradizioni e degli insegnamenti che lui aveva investigato. Now, there comes this moment, which is recorded, when a woman passes by with some offerings, some sweetmeats for the local god. Si racconta di questo momento in cui passò una donna che aveva una ciotola di latte dolce, di un budino, insomma, sì. Qualcosa di da cibo. To offer to a local god. E che lo portava per offrirlo a un dio locale. And seeing this poor man, she thought he needed it more. E vedendo questo povero uomo, pensò, questo ne ha bisogno di più. We know her name, Sujata, which means auspicious birth. Bird? Birth. Birth. Il nome di questa donna era Sujata, che significa nascita augurevole, si dice in italiano. Augurevole, sì. Auspicious, sì. Augurale, forse, non so com'è la parola. But the way the scriptures build up, this this name might have been given to her later. Sorry. The way the scriptures grow, this name might have been given to her later. Sì, cioè nel modo in cui sono andate le cose, il nome sarebbe stato dato più tardi, dopo questo fatto. Remember that the scriptures also evolved over many years. Perché ricordate che le scritture si sono evolute nell'arco di molti anni. Many little things were added. Furono aggiunte piccole cose. So it's really impossible to say what the Buddha actually said. E quindi è impossibile dire ciò che il Buddha realmente detto. But it's the internal harmony of the scriptures which gives its validity. È l'armonia interna delle scritture che gli dà la sua validità. So the main line of the story is correct. Quindi la linea principale della storia è corretta. Mm. So now when he takes this seems to have revived him a little bit. Quindi sembra che questa cosa sia stata un po' rivista. And he remembers then an incident from childhood. E questo gli ricordò un incidente avvenuto nella sua infanzia. He's watching his father doing a plowing ceremony to open up the season. E ricordò che suo padre un tempo aveva officiato una cerimonia di mietitura all'apertura della stagione. And he remembers himself being really concentrated, just like in jhana. E si ricordò che in quel momento lui era stato veramente concentrato, come in un jhana. There is with it this curiosity, like what is my daddy doing? E c'era anche questa curiosità in ciò che stava facendo suo padre. Mm. And so at some point his practice turns around upon itself. E quindi a un certo punto la sua pratica si è girata su se stessa. Instead of searching for happiness, he now begins to investigate how he creates suffering. Quindi invece che cercare la felicità, ha cominciato a investigare come lui creava la sofferenza. In other words, he turned inward to observe his own heart, mind and body. E quindi, in altre parole, si è girato verso l'interno per osservare il suo proprio cuore, mente e corpo. And he seems to have come to such a place of determination that he vowed to sit and crack this problem or die. E quindi arrivò a una determinazione così ferma di risolvere questo problema o sedere fino alla soluzione di questo problema o morire. Ah. So I always say lucky for him, lucky for us. E io dico sempre fortunato lui, fortunati noi. Ah, that he cracked the problem in 6 hours. E perché lui risolse questo problema in 6 ore. 6 ore. And then of course he began his teaching. E poi naturalmente cominciò il suo insegnamento. So when we understand this right awareness, you have to go back to this child. When we understand what we mean by right awareness, we have to go back to the child. The child. Mm. Quindi quando vogliamo capire cosa significa la retta consapevolezza, bisogna tornare indietro a questo bambino. So if you notice when a very young child, 3, 4, 5, 6, 7, when they see something like a beetle that they've not seen before, their eyes fixate. Quindi quando si osservano i bambini dai 3 ai 7 anni che ad esempio non hanno mai visto un insetto, e loro si fissano su quello. Ah, and the jaw drops, eh? E la loro mascella cade. Ah, so they look stupid. E sembrano quasi stupidi. Ah? And a good parent always wakes them up. E un buon genitore di solito li risveglia. Yeah. Unfortunately, they destroy at that moment the possibility of full liberation. E così sfortunatamente viene distrutto questa possibilità di completa liberazione. Ah. So because you see the parents, the child when it's absorbed everything, absorbs it, then it stops and it turns to the parents and says, what is it? Di solito il bambino quindi si assorbe nell'osservazione di una cosa, poi va dal genitore e dice che cos'è? And the parent says, oh, that's a beetle. E il genitore dice, ah, quello è un scarafaggio. Ah, so now the next time the child sees the beetle, he doesn't look at the beetle. E quindi la volta successiva che il bambino vede quello lo scarafaggio, non lo guarda. They want to put they want to show their mummy that they know what it is. Cioè non lo osserva, ma vuole mostrare alla mamma che lui sa che cos'è. Ah, so he says, beetle, beetle. E lui dice, scarafaggio, scarafaggio. Ah, and mummy says, oh, very good. La mamma dice, bravo. Bravo. So, from then on, you see, that child, we never look at a beetle. E quindi da questo momento noi non osserviamo lo scarafaggio. Ah, because we have a concept of a beetle in the mind. Eh? Perché abbiamo nella mente il concetto. The concept is placed on the insect. E questo concetto viene posto sopra l'insetto. Eh? With it there comes a label, beetle. E c'è una etichetta, scarafaggio. And we say, oh, it's a beetle. E noi diciamo, è uno scarafaggio. Ah, but we've not looked at that beetle. Noi non stiamo guardando quello scarafaggio. So in order to look at the beetle, you have to concentrate on it so that you're absorbing just the information again. Per osservare veramente questo scarafaggio bisogna concentrarsi in modo che siamo assorbiti nell'osservazione. So it's the same now when you walk in the grounds. È uguale quando si cammina qui nel bosco. Well, just around here. Okay, ciò che c'è qui intorno. And you see a flower. E vedete un fiore. Just see how you look at it, and the name comes immediately. Guardate come appena lo si osserva viene subito il nome. So now. If you want to look at that flower, you have to stop and let the eye rest on the flower. Se volete guardare quel fiore, dovete fermarvi e lasciare che l'occhio si adagi sul fiore. Ah, and you'll be wanting to see something. Dovete voler vedere qualcosa. But this wanting to see something is coming from your conceptual mind. Questo voler vedere qualcosa viene dalla mente concettuale. Ah. In order to see the flower, you have to let the flower give you information. Per vedere il fiore bisogna che si lasci che il fiore ci mandi le sue informazioni. So you must look but stop looking for something. Bisogna guardare senza cercare di vedere qualcosa. Ah. That's very difficult for us. È una cosa molto difficile per noi. Because we've taught ourselves always to look for something. Perché ci siamo insegnati a sempre cercare di qualcosa, cercare di vedere qualcosa. So all the time when you look at something, remind yourself, what is this flower? What is this vista? What is this? What is it wanting to say to me? Quindi tutte le volte che guardiamo un fiore, un panorama, chiediamoci che cos'è che questo fiore, questa vista vuole dirmi. What is the bird song? What's the bird trying to tell me? Che cosa è questa canzone dell'uccello? Che cosa sta cercando di dirmi l'uccello? So just the sound, the pure sound of the bird. Il puro suono dell'uccello. So this is the purification of the senses. Questa è la purificazione dei sensi. Now, unless we can begin to develop that way of looking, we'll never really see these three characteristics of existence. fino a che non riusciamo a sviluppare questo modo di guardare le cose, non possiamo capire le tre caratteristiche dell'esistenza. So when we did the meditation last night and this morning, this recorded meditation. Quando abbiamo fatto la meditazione ieri sera e stamani con questa registrata. The instruction is given to us on what it is we're looking for. Ci è stata data l'istruzione su cosa stiamo guardando. So there's the process of desiring. Quindi c'è il processo del desiderio. There's impermanence. C'è l'impermanenza. There's some relationship of the knowing with the object. C'è una relazione tra ciò che conosce e l'oggetto. And that sense of not being in complete control. E questo senso di non essere in controllo completamente, non avere il completo controllo. So now we have to, as it were, forget that. E ora dobbiamo scordarcelo. And just look. E solamente guardare. It's very difficult, eh? È molto difficile. So it's understanding that this intuitive awareness now knows what it's looking for. E bisogna capire che la consapevolezza intuitiva sa quello che stiamo guardando. So now you don't have to keep telling it. E non dobbiamo continuare a dirglielo. What keeps telling this awareness is the mind, is thinking. Quello che continua a dire alla consapevolezza ciò che sta facendo è la mente. È il pensiero. So, in order to stop that, we drive our attention into our physicality. Per riuscire a fermare questo, bisogna portare l'attenzione nella fisicità. To feeling, to sensation. Quindi le sensazioni fisiche, sensazioni mentali. Because they are actually happening. E realmente queste stanno accadendo. They are real events in our world. Events? Events. Sì, sono i veri eventi del nostro mondo. In our internal world, phenomenal world. Sì, nel nostro mondo interno fenomenico. So now, then, once we understand that, then of course we have all these obstacles, these hindrances. Quando appunto che noi capiamo questo, però naturalmente abbiamo questi hindrances, gli ostacoli. So Luisa will be explaining this in more detail. E Luisa ce li spiegherà più dettagliatamente. All I shall say is that there's only two types. Ora dirò solo che ce n'è di due tipi. There's those types which send you off onto thinking and imagining. Ci sono quelli che vi mandano in giro a pensare e immaginare. All your desires, your angers, your anxieties, your guilts, and so on. Quindi desideri, rabbia, ansietà e senso di colpa. So every time you see the mind wandering like that, be clear as to what the emotion or the attitude is that's driving this thinking. E quindi tutte le volte che vedete la mente che si comporta così, cercate di chiarire qual è l'emozione che porta questo pensiero. And then you come back into the body to feel what it is. E poi tornate nel corpo a sentire che cos'è. Every time you let the mind wander, it's developing that mental state. E ogni volta che si lascia vagare la mente, si sviluppa questo stato mentale. But if you stay in the body, then this turbulence in the heart has the ability to release itself. Ma se si resta nel corpo, questa turbolenza nel cuore ha la possibilità di lasciarsi andare, di liberarsi. And this is the therapy, E questa è la terapia. It's the therapy. So it's very extremely simple, but you have to be diligent doing that. È molto semplice, però dovete essere diligenti nel farlo. Ah. And the other one, the opposite is of course those things that take us into oblivion. E l'altra sezione, l'opposto, sono quelle cose che vi portano nell'oblio. Ah, because there's dullness and lethargy. Quindi la dullness. Ottusità e la letargia, mente confusa, insomma. So remember that some of it in the first two or three days of a retreat is probably true tiredness. Ricordatevi che nei primi due o tre giorni del ritiro è probabilmente una vera stanchezza. Depending on what has been happening in your life just before you came. Dipende da tutto ciò che è successo nella vostra vita subito prima di venire qui. Sì. But there will also be this dullness and lethargy. Ma ci sarà anche questa ottusità e letargia. Ah. So the way that we work with that is to refuse to be annihilated. To be an? Annihilated. Ah, e quello che si deve fare è di rifiutare di essere annichiliti, disintegrati. Ah, so you have to make big effort, you have to sit up, you have to open the eyes, you have to stand up. E dovete fare questo grosso sforzo di stare su con la schiena, di aprire gli occhi. Ah. And even if you're standing up, you can feel yourself falling over. Mm. Then you go out, you leave the meditation hall quietly and walk up and down. E anche se a volte state in piedi e sentite che cominciate a oscillare, allora lasciate gentilmente la stanza di meditazione e andate fuori a fare una camminata. You have to imagine yourself taking a big fat dog for a walk. Fat dog. Dovete immaginare che state portando un grosso cane per fare una passeggiata. So we've covered those essential points to clarify our practice. Quindi abbiamo parlato di questi punti essenziali per chiarire la pratica. So right awareness is the open childlike gazing. Quindi la retta consapevolezza è lo sguardo aperto del bambino. But it is fired with curiosity. E c'è dentro la curiosità. And then what we are actually investigating are the characteristics of existence. E poi quello che realmente stiamo investigando sono le tre caratteristiche dell'esistenza. Ah, the role of desire in causing suffering. Il ruolo del desiderio nel causare la sofferenza. How everything is always changing, nothing is reliable. Il fatto che tutto cambia continuamente, non si può fare affidamento su niente. How everything we're observing is an object. È che tutto ciò che osserviamo è un oggetto. So you're disidentifying with everything. E quindi ci si disidentifica con ciò che si vede. Ah, sì. And that when you're in this particular meditative state, things are happening outside your control. E quando si è in questo particolare stato meditativo, le cose succedono senza che si possano controllare. Mm. And whenever these hindrances come, you have to name it clearly, label it clearly. E quando arrivano questi impedimenti, bisogna dargli un'etichetta, un nome chiaro. Yes, and go into the body, feel it, experience it fully. E poi andare dentro al corpo e sentirle completamente, pienamente. So you don't try and change it or try and get rid of it, don't try and do anything. E senza cercare di cambiarle, di liberarsene, senza cercare di far niente. I can only hope my words have been of some assistance. Spero solo che le mie parole siano state per voi di qualche utilità. I have not caused even greater confusion. E che io non vi abbia causato una maggiore confusione. May you be fully liberated by your commitment to your practice. e possiate voi essere liberati dal vostro impegno nella pratica. Sooner rather than later. Prima piuttosto che dopo. Now there are some people who want to be instructed with a walking meditation. Ci sono alcune persone che vogliono essere istruite nella meditazione camminata. Sì. Slow walking, eh? So if you stay, I will. Se quindi rimanete qui. And the rest is for some walking meditation, eh? E il resto può andare a fare meditazione.